Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica. Quanti ci ascoltano l'avrete forse riconosciuto, molti di voi l'avranno riconosciuto, è un celebre quintetto di Schubert, La Trota, ed è stato scelto da Pasquale Gagliardi. Buongiorno Gagliardi. Buongiorno. È stato scelto da Pasquale Gagliardi perché? Ah, perché pensavo che questa conversazione potesse essere ben introdotta da una musica suonata da un insieme. Allora, la sinfonia è per definizione la musica di insieme, però nella sinfonia non sono sempre distinguibili gli strumenti. Allora, il quintetto mi sembrava una via di mezzo interessante, cioè una situazione in cui, secondo me, si vive l'esperienza della bellezza dell'organizzazione. Ecco, Pasquale Gagliardi è un innamorato dell'organizzazione. Sì. È stato direttore dell'Istut, l'Istituto Studi Direzionali, dal 77 al 2003. È stato docente di sociologia delle organizzazioni della Facoltà di Scienze Politiche della Cattolica di Milano fino al 2009. Oggi è segretario generale della Fondazione Cini. Della Fondazione Cini di Venezia, che ha sede nell'isola di San Giorgio. Sì. E anche della Fondazione Cini il gusto dell'organizzazione non manca. No, assolutamente. No, diciamo nel senso che non so se la Fondazione Cini sia conosciuta abbastanza. Comunque, allora spieghiamo cos'è la Fondazione Cini. È un grande centro di studi umanistici, ecco, questo è. Ed è nata con una specie di miracolo, perché forse si può raccontare brevissimamente la storia. Certo. Cioè, nell'isola che aveva ospitato il più grande monastero benedettino della storia dell'ordine benedettino, questo l'ordine, il convento fu chiuso, l'isola fu occupata da Napoleone alla fine del Settecento. Ecco, è l'isola di, a Venezia di fronte a San Marco. Di fronte a San Marco, la grande basilica di Palladio Bianca. Ecco, quest'isola fu occupata, il convento fu chiuso, tutte le bellezze, le opere d'arte che erano contenute nel monastero furono rubate. La più celebre è evidentemente Le nozze di Cana di Veronese, che fu fatto letteralmente a brandelli e trasportato al Louvre ivi ricucito. E Vittorio Cini, questo industriale che viveva a Venezia di origini ferraresi, che aveva avuto la disgrazia di un figliolo che si chiamava Giorgio, morto in un incidente aereo giovanissimo, decide di fare qualcosa per onorare la memoria del figlio e chiede allo Stato di dargli l'isola abbandonata da 150 anni in uno stato di degrado incredibile per farne la sede della sua fondazione, una fondazione intitolata al figlio. L'intuizione straordinaria di Cini è stata questa. L'abbazia era stato un grande centro di cultura e un grande centro di collezione d'arte, quindi un centro di un luogo, uno scrigno di gioielli. Cini decide di prendere l'eredità dell'abbazia, continuare a fare esattamente le cose che si facevano nell'abbazia. Quindi un grande centro di studi e un grande centro di incontri, perché l'abbazia era anche un centro di incontri politici, e un grande centro di raccolte di collezioni d'arte. Le prime collezioni d'arte sono state quelle donate da Cini alla fondazione stessa, e poi il suo esempio è stato imitato da molti. Ecco, avreste voluto riavere le nozze di Cana del Veronese, in qualche modo li avete riavute, come? Le abbiamo riavute, questa è una storia molto interessante, da sola credo ci porterebbe molto tempo, sì. Però è una storia anche divertente. Vittorio Cini decide che nello statuto della fondazione il primo scopo della fondazione è il restauro dell'isola, quindi lui restaura 5 monumenti architettonici di qualità straordinaria e di importanza capitale nella storia dell'architettura, che sono il chiostro di Palladio, il chiostro di Buora, il refettorio di Palladio, il dormitorio di Buora e la scalinata di Longhena. Sono i 5 monumenti che sono visitabili alla Cina. Tutti questi monumenti erano in uno stato irriconoscibile, ma nel refettorio di Palladio c'era una cosa straordinaria. Cioè, il refettorio era in realtà il risultato del lavoro congiunto di un severo architetto come Palladio e un forsennato pittore fantasioso veronese, che hanno lavorato insieme. Quindi aveva dipinto per il refettorio il grande quadro che copriva la parete di fondo, che era un quadro con 133 personaggi storici dell'epoca che rappresentavano le nozze di Cana. E quando nel 75, credo, ancora vivo Cini, si organizza un seminario sui rapporti fra Venezia e Parigi nel Settecento, Malraux viene invitato a tenere una conferenza. E Cini, alla fine della conferenza di Malraux, dice: avete sentito come l'eloquio del poeta si combinava bene con la bellezza dell'architettura? C'è un terzo elemento che avrebbe reso l'armonia ancora più completa, dice il quadro di nozze di Cana, che è stato portato via. che io ho cercato inutilmente di riavere. E Malraux disse: se mai avrò responsabilità politica in Francia, mi impegno a restituirvelo. Dopo 2 anni viene nominato ministro della cultura, il mio predecessore Vittore Branca si precipita a Parigi, gli ricorda la promessa e Malraux gli dice: mi ricordo la promessa, ma per ragioni politiche è impossibile. Appena io arrivo alla Cini, entro, tutte le volte che entro nel refettorio, vedo questa parete vuota in cui è stato messo un quadro di Tintoretto che aveva, voglio dire, bello in sé, ma certo. Non... E continuavano ad avere questa nostalgia, questa ferita aperta. Allora, era un po' come avere la Cappella Sistina senza il Giudizio Universale. Questo, così, esattamente. Ed era veramente incredibile, perché era un luogo monco, l'opera d'arte, l'insieme del quadro e dell'architettura. E faccio un tentativo di proiettare una fotografia del quadro ad alta definizione, ma per vedere la fotografia bisogna chiudere le finestre. Si perde completamente questo senso della relazione fra la luce esterna, le finestre, l'architettura e il quadro. Ne parlo con un filosofo della scienza noto, sociologo in francese, Bruno Latour, e Latour mi dice: ma perché non fai un facsimile? Io dico: cosa, un facsimile? No, non una fotografia, una riproduzione materiale fatta con tecniche digitali. Mi presenta la persona che mi dice essere l'unica persona al mondo in grado di farlo, ed è vero. E questa persona ha realizzato una cosa che nella storia dell'arte non era mai accaduta, cioè un quadro di 70 metri quadrati che viene riprodotto matericamente in modo identico all'originale. La tela è tela di lino d'Irlanda come quella usata da Veronese. Il gesso ha lo spessore del gesso messo da Veronese. Ogni colpo di pennello ha la stessa intensità e la stessa valenza cromatica. È un miracolo. Quindi non è una copia, è una riproduzione. È una riproduzione. Allora, adesso ci sono 2 veronesi in pratica. Allora, Parigi però e una le dico Venezia. Cosa ha detto Salvatore Settis quando abbiamo inaugurato quest'opera. Salvatore ha detto: dice, noi non conosceremmo la scultura greca se non avessimo le copie romane. Il problema non è la copia, è la buona copia. Se io ho una perfetta copia dell'originale, questo vale l'originale. Ma in questo caso c'è qualcosa di più. L'opera d'arte è fatta dall'insieme del quadro di Veronese e dell'architetto di Palladio, per cui se l'opera è l'insieme, a meno che il Louvre non faccia un facsimile del refettorio, oggi l'opera è qui. Questo giudizio, che è stato contestato inizialmente da molti critici esperti d'arte, si sono tutti ricreduti. Mi ha detto Settis che gli hanno tutti scritto dopo aver visto il risultato. Quindi ecco, quest'opera del Veronese è uno dei punti di richiamo, sì, della Fondazione Cini, che appunto può essere visitata, è aperta, sì, al pubblico. Sabato e domenica alle ore ci sono delle visite guidate che permettono di vedere tutti i monumenti, incluso il refettorio con le nozze di Cana. E poi è un centro di grande studi. Grande centro di studi umanistici, cioè noi abbiamo sostanzialmente degli istituti sul modello degli istituti di studi avanzati del mondo anglosassone. E i più importanti sono l'Istituto per la Musica, anzi l'Istituto di Storia dell'Arte, che forse in assoluto il più importante, l'Istituto per la Musica, l'Istituto per la, diciamo, di Studi Musicali Comparati, poi c'è un istituto speciale, vale a dire di etnomusicologia, quindi già 2 di musica, poi ce n'è un terzo, un istituto Vivaldi, che è un istituto specializzato per la pubblicazione, edizione e critica delle opere di Antonio Vivaldi, poi c'è un istituto di studi orientali, che in realtà è un istituto di studi anche religiosi, e un istituto di lettere che ha al suo interno soprattutto un grandissimo nucleo di studio del teatro, della danza e in generale delle rappresentazioni. Poi nella seconda parte parleremo anche, sì, di organizzazione, però sulla, sì, Fondazione Cini, sì, adesso c'è una realizzazione che sembra un po' in contraddizione con l'organizzazione, un labirinto che s'azzecca. Ah, dunque, allora, questo fa parte di questo disegno di continuare il restauro dell'isola fino in fondo, interpretando la volontà del fondatore. Allora, all'uscita del secondo chiostro c'era uno spazio cementificato e pieno di sterpaglie che era sostanzialmente abbandonato. Quindi, mentre al di là di questo spazio c'è una nuova area che è stata creata negli ultimi anni, cioè durante la presidenza Bazoli, che è una specie di grande centro internazionale per le arti visive e performative. Cioè, questo è interessante. L'isola è divisa in 2 parti. Di qua ci sono gli edifici monumentali che ospitano gli istituti di ricerca. Di là ci sono quelli che si chiamavano, guarda caso, gli orti di San Giorgio. Quindi ora et labora. Quindi di qua c'è la ricerca, di là c'è la performance. Quest'area era occupata inizialmente dalle scuole professionali, ancora una volta luoghi di applicazione della conoscenza. Oggi le scuole professionali sono state chiuse, sono state trasferite in terraferma e noi abbiamo, lì c'è un teatro, ci sono 2 aree espositive, ci sarà un auditorium e il collegamento tra la parte monumentale, la ricerca, e la parte performativa, il centro di studi arti visive e performative, è rappresentato da questo straordinario labirinto disegnato da un architetto inglese dedicato a Borges. Quindi è un libro aperto, visto dall'alto, ha le dimensioni di un chiostro, quindi si entra dal secondo in un terzo chiostro, 2 lati edifici monumentali, gli altri 2 lati 2 file di cipressi. Quindi è un labirinto in cui non ci si perde. No, ci si perde assolutamente. Il percorso complessivo è di 1,5 km ed è un vero labirinto. Cioè, siccome allora l'altezza delle siepi sarà di 90 centimetri, 90 centimetri è il limite in cui si passa dal gioco al rischio claustrofobico. Quindi questi siamo al limite. Allora, il nome, le due pagine si specchiano una dell'altra. Ci sono il nome di Borges, ma anche tutti i simboli della sua narrativa: la clessidra, gli occhi della tigre, il bastone del viandante. E questo sarà aperto da metà giugno. 14 giugno sarà inaugurato. Incontri. Con queste note della trota di Schubert riprendiamo il nostro incontro con Pasquale Gagliardi, segretario generale della Fondazione Cini di Venezia. Abbiamo parlato a lungo della Fondazione Cini di Venezia. Pasquale Gagliardi è un grande esperto di organizzazione, tra l'altro ha appena scritto il libro Il gusto dell'organizzazione, estetica, conoscenza, management, edito da Guerini e Associati. Ne parleremo tra poco, ma dobbiamo concludere il discorso sulla Fondazione Cini, sull'isola di San Giorgio, sul labirinto che verrà aperto dal metà giugno, un labirinto particolare. Gagliardi, come mai? Allora, prima di tutto è un libro, e Borges diceva che ogni libro è un labirinto, quindi c'è un'incarnazione della simbologia cara a Borges. L'idea, il suggerimento è venuto da Maria Kodama. Maria Kodama, la vedova di Borges, cercava un luogo nelle città amate da Borges per realizzare questo labirinto disegnato da Coates, questo architetto inglese. La prima domanda di Maria Kodama è stata: ma c'è una biblioteca qui? Allora, se noi abbiamo esattamente sopra il labirinto, credo una delle più belle biblioteche del mondo, che è quella illustrata sulla copertina del libro di cui lei ha parlato, Il gusto dell'organizzazione. E il labirinto è un vero labirinto ed ha una proprietà, cioè c'è un corrimano, questa è un'idea di Maria Kodama, sul corrimano è inciso in alfabeto Braille il racconto di Borges, Il giardino dei sentieri che si biforcano. E quindi soltanto i ciechi sono in grado di uscire dal labirinto, perché sono in grado di leggere il racconto seguendolo sul corrimano che percorre le siepi. E quindi c'è un corrimano che guida, appunto. Che guida chi è in grado di leggere. In grado di leggere. Questa è un'idea molto suggestiva, devo dire, perché tutte le volte che la raccontiamo molte persone si commuovono. E questo è un modo di organizzare in fondo una forma che, come il labirinto, potrebbe essere un esempio di qualcosa di disordinato. Guardi che il labirinto, da un certo punto di vista, c'è un dietro modelli matematici, cioè è un'opera di perfetta organizzazione il labirinto. Cioè, questa è, tra l'altro, è una questione molto complicata, perché la decisione relativa al disegno di questo corrimano non è semplice. Ci sono dietro una serie di questioni da superare. Cioè, cosa succede quando i sentieri si biforcano? Il corrimano si interrompe? Allora, come si fa? Il cieco che tipo di indicazione riceve? Quindi è allo studio, naturalmente, la persona che sta studiando il corrimano è Adam Loewe, la persona che ha realizzato il facsimile delle nozze di Cana, quindi un grandissimo tecnologo, persona capace di lavorare su delle cose che hanno una valenza artistica, però. Ecco, allora torniamo un attimo alla sua precedente esperienza, quella di direttore generale dell'ISTUD, l'Istituto Studi Direzionali, c'è stato per quasi 30 anni, è un istituto in cui l'organizzazione la si insegnava. Cosa è cambiato negli ultimi 30 anni in questa disciplina, possiamo chiamarla così? Sì, certamente. Ma io credo che la disciplina è molto maturata. Nel senso che gli studi organizzativi sono un campo di studi straordinariamente affascinante. È tipicamente interdisciplinare, vale a dire non è definito da una prospettiva, cioè non è che si studia la psicologia dell'organizzazione o l'antropologia dell'organizzazione, si studia l'oggetto organizzazione utilizzando tutte le categorie utilizzabili da qualunque disciplina provengano. Quindi è un campo molto fertile ed è un campo straordinariamente aperto, ad esempio, alle suggestioni della filosofia contemporanea, della linguistica, quindi ricchissimo, in un certo senso anche difficile. E anche questo libro, da un certo punto di vista, non è facile, perché il contesto scientifico nel quale io mi sono mosso è un contesto complesso. Ecco, ma l'organizzazione, così da profano, dovrebbe essere qualcosa che semplifica. Sì, l'organizzazione semplifica, ma l'organizzazione è complessa, cioè la realtà è complessa. Allora, la vera l'organizzazione giusta è quella che riesce a cogliere la complessità del reale e a interpretarla correttamente. In questo senso, diciamo ancora una volta, il riferimento alla musica. Il miracolo dell'organizzazione dipende da un paradosso. È il paradosso di tenere insieme l'alta specializzazione e l'alta integrazione. Quando noi ascoltiamo il quintetto, sentiamo distintamente ciascuno strumento, ne riconosciamo il timbro. Ognuno sembra che vada per suo conto, ma tutti insieme fanno qualche cosa di sublime. Il piacere che nasce dall'ascoltarlo non nasce solo dalla qualità dell'invenzione musicale, nasce anche dallo stupore di questa esperienza che si rinnova, di vedere l'emblema del paradosso. Allo stesso tempo, ognuno va per suo conto e contemporaneamente insieme realizzano qualcosa di più che nessuno di loro potrebbe fare da solo. Quindi ogni organizzazione è un fenomeno complicato. Le organizzazioni non sono semplici, sono complicate. Anche perché è importante, diciamo così, la partitura, la scrittura della musica, ma altrettanto importante l'esecuzione ed è ancora importante anche la direzione di orchestra. Coordinamento. In questo senso, sa, dico, chi aveva intuito che l'orchestra è la metafora perfetta dell'organizzazione, allora è stato Fellini quando ha fatto prova d'orchestra. Ecco, però diciamo, la stessa orchestra, diciamo, ascoltare una cosa eseguita bene da un'orchestra non è una cosa semplice. Quindi se noi vogliamo davvero riflettere su che cosa vuol dire la complessità dell'organizzazione e la sua bellezza, riflettiamo sul modo in cui viene preparata ed eseguita una composizione per orchestra o per un insieme musicale. E come sta l'Italia, il nostro sistema economico, il nostro, ma in cui l'Istituto ha preparato molto i dirigenti, la classe dirigente per le aziende italiane a livello di... Guardi, diciamo, io trovo che in questo momento c'è un problema che ho affrontato esplicitamente in questo libro, che è il ritardo e la lacuna che esiste, il distacco tra la qualità avanzata degli studi sull'organizzazione e la pratica manageriale. Cioè il problema dell'Italia, ma non è solo dell'Italia, in una certa misura è vero anche in altri paesi occidentali, è che gli studi organizzativi hanno fatto dei grandi progressi, appunto nel concepire l'organizzazione non come una semplificazione arbitraria, ma come una capacità di interpretare la complessità, capacità di mettere insieme il diverso e realizzare contemporaneamente qualcosa di integrato, recuperare l'unità dell'azione. Ma soprattutto in Italia, anche nelle business school, nelle scuole di management, come l'istituto che io ho diretto, diciamo, l'istituto ovviamente si fanno cose diverse, perché in qualche maniera l'istituto ha lasciato traccia del mio lavoro anche lì, per cui gli studi sulle culture organizzative, l'importanza attribuita alla complessità dell'organizzazione e all'insegnamento della complessità è stato centrale nella tradizione dell'istituto. Però non c'è dubbio che in generale nelle aziende i modelli manageriali sono ancora ispirati a un modello vecchio, che è quello che è stato importato 60 anni, 70 anni fa dall'America nel secondo dopoguerra. Un modello semplificato che vede le organizzazioni come un'economia, come una questione di efficienza, come una questione di procedure, di fatti, di risultato economico. Ma non c'è la coscienza che dirigere un'organizzazione vuol dire avere la responsabilità della qualità della vita di un pezzo di mondo. Come disse Margherita Yourcenar, attribuì questo pensiero a Adriano, nelle memorie di Adriano. Quando Adriano seppe di essere stato nominato imperatore, il suo primo pensiero fu: mi sentii responsabile della bellezza del mondo. Questo è il problema. Cioè il manager non è soltanto responsabile del profitto, è responsabile della bellezza di quella parte di mondo che gli viene affidata. Anche perché non si tratta di organizzare delle macchine, ma si tratta di organizzare delle persone. E questo è il problema. E quindi bisogna avere una profonda comprensione. In questo senso c'è un capitolo di questo libro che discute espressamente il rapporto fra discipline umanistiche e management. Cioè la proposta è radicale. Io ho fatto un convegno su questo tema apposta con l'Università di Oxford a Venezia, appena arrivato alla Fondazione Cini, quindi mettendo insieme le mie esperienze dell'istituto che finiva e quella della Cini che cominciava, che era un grande centro di studi umanistici, discutendo a livello internazionale che cosa possono dare le discipline umanistiche alla formazione di un manager. Ovviamente la proposta è radicale, la proposta è che è fondamentale una concezione, cioè l'umanesimo è centrale nella capacità di gestione. Ecco, per questo si parla appunto nel libro Il gusto dell'organizzazione di Pasquale Gagliardi, sì. Estetica, conoscenza, management, l'estetica è al primo posto. Estetica sì, perché diciamo, e questo spiega anche il titolo, prima di tutto c'è una dimensione estetica delle organizzazioni che viene trascurata, cioè le organizzazioni sono dei luoghi non soltanto di dominio della razionalità, ma prima di tutto dei luoghi di esperienze sensibili, cioè dei luoghi dove si respira un'aria, si ascoltano degli odori, si ascoltano dei rumori, si vedono delle cose. Ecco, diciamo che il mio lavoro fondamentalmente è stato quello di mettere l'accento sulla scoperta della cultura materiale delle organizzazioni. Cioè io ho dimostrato l'importanza del paesaggio. Il paesaggio aziendale, il modo in cui gli edifici di un'azienda sono costruiti, anche questo edificio nel quale noi ci troviamo, il paesaggio diventa un emblema, in qualche modo incorpora la cultura di un'organizzazione, anche se non lo si vuole, la interpreta e la trasmette in un modo silenzioso ed ostinato. Quindi per esempio, per me, organizzare qualcosa umanamente significa prima di tutto creare un contesto fisico. Allora, creare un contesto fisico sul cui sfondo si dipanino poi le relazioni sociali. Questa è una scoperta, vuol dire che... Ma lei ha scoperto alla fine di essere stato un umanista anche insegnando la direzione d'impresa? Sì, in un certo senso, per la verità, penso di esserlo stato sempre. Però questa, diciamo, soprattutto l'esperienza della Cini evidentemente mi ha rafforzato in questa convinzione, perché lo studio delle organizzazioni come culture e lo studio della dimensione estetica delle organizzazioni, estetica anche nel senso generale della parola, come luogo di esperienze sensibili. Cioè, per esempio, l'affetto si può condizionare una persona, orientarla in un senso o nell'altro attraverso le esperienze sensibili alle quali noi lo sottoponiamo. In fondo anche rivitalizzare, sì, un'isola come quella di San Giorgio, che non è solo un monumento ma è qualcosa, allora, di vivo. Il problema è stato proprio questo: noi volevamo trasformare questo luogo, che era sostanzialmente un grande scrigno di gioielli, in un luogo vissuto. Cioè, gioielli, non mi riferisco solo alle opere d'arte, certo, ma anche agli enormi archivi che questa fondazione custodisce nel campo musicale, letterario, coreografico, eccetera. Allora, il mio problema era, io per costruire una comunità vivente devo prima di tutto pensare al contesto fisico che devo creare, che deve essere adatto al sistema di relazioni umane che desidero nasca e si sviluppi in questo contesto. Questo è un po' il senso. Devo dire che in questo libro c'è anche ci sono diversi livelli di interpretazione della metafora del gusto, perché c'è anche proprio il piacere di organizzare. Cioè, io trovo che la capacità di costruire qualche cosa che funziona, cioè, io voglio dirle questo, non soltanto quando ascoltiamo il quintetto della Trota, ma qua o in qualunque altra esecuzione musicale, di fronte a un ristorante che funziona bene, o a un supermercato efficiente, o a un ospedale che funziona bene, noi proviamo l'ammirazione e lo stupore, che in parte è anche piacere estetico, per la bellezza dell'organizzazione. E sappiamo ancora emozionarci anche, sì, di fronte alle cose belle. Ma di fronte a un ospedale che funziona bene, lei non si emoziona. grazie Pasquale Gagliardi, forse ci siamo emozionati anche un po' parlando di queste bellezze, parlando della Fondazione Cini, dell'Isola di San Giorgio e anche della bellezza di organizzare le persone, perché quando si sanno valorizzare le persone è sempre qualcosa di bello. Abbiamo parlato appunto con Pasquale Gagliardi, segretario generale della Fondazione Cini, autore del libro Il gusto dell'organizzazione, edito da Guerini e Associati. Lo ringrazio per essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Paolo Corleoni in regia e Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.